YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera, bentornati alla mia ora preferita del sabato del villaggio. Che stanchezza. Anche la mia. No, scherzo, no, io preferisco le altre due. No, che no, veramente, veramente. Vabbè, sono stanca, però sono contenta perché è un nuovo appuntamento con la trasmissione, anche se non ho più voce oggi. E allora leggo io. Non lo se so, vuoi. Sì, dai, prova a farlo tu. Prova a leggere, oppure vado a memoria, anch'io, sì, però mi sta calando, sì, la voce. Dunque, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, eppure il perdibile della settimana tra TV, web TV e social TV. Dobbiamo ricordare i nostri, sì, account, come farebbero i bravi conduttori, et Marta Cagnola, et, sì, Di Bellasio, questo vado a memoria, e poi l'hashtag cancelletto RadioTube. Siamo, ecco, pronti. Sai, la scorsa settimana avevamo segnalato quasi per primi una, cosa, tendenza. Qual era la tendenza? A chiudere forte. Un video che è stato diffusissimo da tutti. Quale? Io vorrei ritornare sulle note di questa musica meravigliosa che noi abbiamo ripreso proprio poche ore dopo che la lanciassero. Sto capendo più nulla. Carrà, ah, qua. La Carrà. Ce la farò, io ce la farò, con un po' di fortuna ce la farò, come un gabbiano che cerca il suo nido, ho un po' di paura. Fosse rimasto chiuso, sembra, in casa negli ultimi 10 giorni. No, l'inno dell'Inter, io non sono interista, però un po' più lo conosco bene perché è una collega che aveva la suoneria dell'inno dell'Inter. Allora, oddio, io sto perdendo la voce intanto. Ce la farai? No, non ce la farò. Allora, è questa canzone, chi fosse rimasto chiuso in casa nell'ultima settimana non l'ha mai sentita, però insomma è quella canzone che ha scelto Raffaella Carrà in uno dei momenti topici del suo forte è un jingle. È andato come un benissimo. Jingle. Noi l'abbiamo fatto sentire subito nella puntata scorsa di RadioTube, perché noi andiamo a prendere proprio le chicche della settimana appena diffuse in rete. E infatti si è diffuso dopo. Si è diffuso perché il giorno dopo c'è stata subito la parodia di quelli che allora l'hanno utilizzato come sigla iniziale al giorno dopo, domenica, quindi due giorni dopo Forte Forte, il giorno dopo di noi. Rai contro utilizzato... Rai. Beh, dai, però erano irresistibili. Per e Lucia Ocone, che io trovo bravissima, veramente brava, ha preso un po' in giro Joaquin Cortés, che è uno dei giudici di Forte Forte Forte. Io amo dire che Joaquin Cortés era uno dei sex symbol di qualche anno fa. Era. Io sono talmente vecchia per ricordarmi di quando era sex symbol, perché adesso è un filino ingrassato. Cioè, non è più sex symbol. No, che bello, no, uno non è più sex symbol. No, no, Lucia Ocone l'ha preso in giro così. No, non può essere che mangia, ma può essere. Joaquin. Hola. Joaquin, basta mangiare. No, no estoy mangiando, no. Estoy haciendo unos puntinos de metà pomeriggio, va bene, vale? Sí, va, yeah, vale. Porque estoy haciendo la dieta a zona, no? Sí, la dieta a zona è fatta di piccolissimi spuntini, non di un piatto. No, no, no es verdad, no es verdad. La dieta a zona si fa así, no? Cuando estoy en la zona Italia, sí, me como la pasta, cuando sí estoy en España me como la paella, ¿vale? Ho capito, però Joaquín, non basta mangiare. Beh, Joaquin, basta mangiare, povero Joaquin Cortés, che è stato così preso in giro perché insomma effettivamente non è più, mi è diventato un filino cicciottello. Vabbè insomma, però Forte Forte Forte è stata presa molto in giro in rete. C'è da dire che più viene presa in giro, probabilmente ne avrebbero parlato anche meno, sì, se fosse stata così. Cioè? No, nel senso, cioè, che alla fine stanno andando a guardarlo tutti per vedere, esatto, se effettivamente, esatto, è così brutta come dicono in rete. Ha fatto il giro questa forte forte forte. Ma piace molto, visto i critici televisivi su Twitter, tutti sì, entusiasti proprio, cioè l'hanno un celebrata fiorino, Domenico proprio, Naso, tutti sì, l'hanno te celebrata tutti. Vabbè, vabbè, vabbè, povera Raffa. Però ci sono state anche delle parodie irresistibili. Di che cosa? Sempre di forte forte forte. Di forte forte forte, di in corte, particolare sport, di sport. No, proprio di Ce la farò. Io ho scovato questa parodia di una di la Wanda gastrica. La staccato, la mentre Wanda ce gastrica. La farò l'hai scritto tutto attaccato, sì, questa no, è la Wanda, ma lei si chiama la Wanda con due W gastrica, sì. L'ha segnalata Federico Boni, che è stato anche nostro ospite anche sia a Radio che a Sabato del Villaggio, il suo spettegules. La Wanda gastrica che canta, io l'ho tagliato solo un pezzettino perché ce le parolacce? No, insomma, vabbè, da quando ti poni questi problemi? No, da mai. Ecco la Wanda gastrica che parla dei suoi problemi di quali? Pigrizia mentale. Pigrizia, di acidia. No, di acidia, pigrizia intestinale. Eccola qua, la Wanda gastrica. Ce la farò. Ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta, no, nel senso che comunque lei la cantava in bagno e... Beh, un inizio scoppiettante, dai, di questo RadioTube, sono Alvaro Vitali quando? Non abbiamo un pezzettino di Alvaro Vitali. No, però devo però dirti lo che possiamo recuperare. Possiamo recuperarlo, così anche al volo chiediamo a Valeria. No, però effettivamente le parodie in rete su Ce la farò si sono, vabbè, lo abbiamo scovato la rete subito. Ormai è una grande parodia. Sì, abbiamo scovato subito il fenomeno. Io però vorrei dirti che sì, domani inizia il mese di febbraio. Sì, è febbraio. Ed che è un mese bello. Un mese bello, gennaio è un mese, è un po', no, sì, un mese un po' di transizione. Ed è bello perché a febbraio effettivamente succedono le cose importanti. Sì. Carnevale. Ad esempio, c'è Carnevale. No, ce n'è una molto bella. Io vorrei entrare un pochino in atmosfera. Cioè, ti vesti da Arlecchino. No, senti qua cosa succede quest'anno. Ma è una versione dance però questa. No, è proprio lei, senti qua. No, è proprio lui, non lei. Cioè, lui e lei. C'è anche lei. Eh sì, allora, non solo c'è lui e c'è lei, ma apriranno il Festival di Sanremo. No, vabbè. Sì, il Festival di Sanremo si apre con Albano e Romina. Io sono cosa molto, non molto, si fa molto per contenta. L'amicizia, che resta tra le coppie, per amicizia, beh, no? Ci hanno messo un po' a ritornare amici, però sono ritornati amici in qualche modo, non so soci, perché, però. Almeno soci, possiamo dire. Ah, beh, sì, soci, ma non sono social, perché noi avevamo parlato con Albano non vuole no, entrare è arrabbiato, nei social. Anzi, dice, aveva detto delle cose terribili no. da me. Però noi parleremo del Festival di Sanremo per forza, anche perché anche già l'anno scorso i cantanti erano molto social. Sai chi è quest'anno il cantante più social di Sanremo? Ma non lo so, c'è Mengoni? No, quest'anno no, quest'anno Raff, non c'è. Team Raff. Allora, Raff. Nesli con che 900, anche chi è che cosa tu canta? Non conosci, no, assolutamente. 940.000 fan. Anna Tatangelo con 872.000 fan. E tutti il maschi, volo peraltro. Con no, Anna no anche tante anche femmine e il volo con 825.000. Tutto questo su Facebook. Invece su Twitter la più seguita cambia. È proprio Anna Tatangelo con 380.000 follower. Irene Grandi, pensa, a sorpresa, 360. Beh, come sorpresa, Irene Grandi era nel senso che io pensavo social. No, beh, insomma, io pensavo per proprio Twitter. Invece più ragazzini, 360.000 follower di Irene Grandi, il volo con 245.000. E questa, ma chi lo vince Sanremo, chi lo sa? E non lo so, dipenderà tutto dal meccanismo di voto. Vabbè, magari ne parleremo la prossima addirittura settimana. Addirittura subito sì, i tecnicismi, sì, manco fosse dipenderà il tutto dal meccanismo di voto. Sì. Noi ci ritroviamo tra poco perché abbiamo l'appuntamento con il traffico. E poi sai di cosa parlerei io? Lo so, guarda, visto il primo blocco può succedere qualunque cosa. Siamo partiti qui dalla pigrizia. Allora, a sorpresa non saremo per niente pigri nel secondo blocco di RadioTube. RadioTube. Rieccoci insieme dopo qua. Il traffico, dopo un blocco. Io sto perdendo la voce. Dopo un blocco in cui abbiamo parlato un po' di tutto. Ce la faremo, sì. Abbiamo deciso che ce la faremo. Che a febbraio ricomincia Sanremo. Questa settimana tanta TV e tanti social. E tanta TV e social insieme, Daniele. C'è stata una sovrapposizione delle cose. C'è stato l'editto cose. L'editto bulgaro no, di Renzi. No, non sì. era un editto bulgaro. No, perché era un tweet. Era un editto via tweet. Beh, allora Renzi era lì sul suo divanone. No, a casa, dai, con Filippo me, Sensi di fianco. Secondo popcorn, me, col dici? Suo divanone stava guardando non l'Isola dei Famosi. Ma chi se l'ha detto intanto che era lì sul divanone? Secondo me, io me lo immagino. Matteo Renzi lì sul divanone. Sì, che guarda Formigli. Che guarda Piazza Pulita. Probabilmente, nel senso che lui stava guardando la TV e gli è scappato un tweet. Ma è scappato, show, non lo so. Era alle 22:25 di lunedì sera. Sì. E a leggere il tweet in diretta è stato proprio Corrado Formigli durante Piazza Pulita, eccolo qua. Evidentemente ci stava seguendo il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha fatto questo tweet ai suoi 1.600.000 follower: trame, segreti, finti scoop, balle spaziali e retropensieri. Basta una sera alla TV e finalmente capisci la crisi dei talk show in Italia. Qualcuno vuole commentare il tweet di Renzi? Ce l'aveva con te, eh? Ce l'aveva con me? Ha perfettamente ragione, perché discutiamo da qualche settimana su dei nomi che non vengono da lui. Beh, insomma, ha ragione. Dice Sgarbi. Sgarbi, perché c'erano Sgarbi, c'era Fassina, c'era Giannino, c'era Oscar, c'era Claudio Cerasa. E poi praticamente poco dopo Davide Ricca, cioè fondatore e coordinatore di Agnesi.it, imprenditore ma soprattutto la segretaria regionale PD Piemonte, gli ha detto vabbè, usciamo e andiamo a prenderci una birretta. E Matteo Renzi no, gli ha risposto, no, la cosa è seria. No, è una cosa seria, dobbiamo cambiare modo di raccontare l'Italia e la politica, non siamo quella roba lì. Allora, sarà vero? I talk show sono davvero, aspetta, trami, segreti, finti, scoop, balle spaziali e retropensieri? Io vorrei parlarne con il più esperto di tutti. Cioè, il più senza esperto, dubbi. Lui molto è quello social, che ne sa di più. Peraltro. Molto, molto social. Infatti io lo seguo sempre su Twitter, so sempre, mi piacciono molto le sue foto quando va in aereo da Milano a Roma e fotografa dall'aereo, mi piacciono molto. È appena finito TV Talk, lo staniamo, appena finito TV Talk, buonasera Massimo Bernardini. Buonasera a voi. Allora, eccomi qua adesso. Allora, voglio sapere. È più lunga degli altri o troppo? No, dai, sei. Analizzo come tanti. No. La televisione del nostro paese. Mettiamola così. E poi la racconti in televisione, che tra l'altro è ancora. Però posso già bastonarvi, posso? Sì, certo. Bastonaci subito. Ci piace. L'idea dell'editto bulgaro non c'entra niente. Oh, sei dalla mia parte, invece Bellasio no, dice che. No, ma io ho letto da qualche parte, qualche giornale scritto, no? L'editto renziano. Scusa, editto bulgaro è fatto da un presidente del Consiglio in carica che controlla, oltre alle reti private, la RAI attraverso la responsabilità oggettiva che ha come premier, che telefona al servizio pubblico, per esempio a Ballarò, e dice dovete fare questo e quello. Mm-hmm. Un po' diverso. No, certo, io non era la mia. Siamo a un libero cittadino, nonché premier, che scrive quello che pensa su social network a cui è iscritto. Uno può ragionare in termini di opportunità, questo magari, come dire, ai tempi antichi non si faceva, però da lì al dito bulgaro c'è una certa differenza. Ma ha ragione in quello che dice? Insomma, voglio dire, allora, crisi del talk show è oggettiva, no? Nel senso che comunque fino a un anno e mezzo fa, sì, più o meno, avevamo almeno il più visto dei talk show italiani che faceva intorno ai 3 milioni. Adesso non c'è, credo, un talk show italiano che arrivi ai 2, e la maggior parte di essi non arriva al milione di spettatori, quindi c'è una crisi oggettiva. Le ragioni sono tante, però è oggettivo che oggi i talk show sono molto meno visti dalla gente e quindi sono molto meno autorevoli. Lui, come dire, fa un ragionamento di causa-effetto. La ragione è che appunto sparano nel mucchio, dicono tante cose, nessuna verificata, insomma, balle spaziali, mi pare usare questa espressione. E quindi, insomma, come dire, il giudizio è molto, molto preciso, è molto netto, anche molto aspro da un certo punto di vista. Però, insomma, io torno all'opportunità. Forse un premier potrebbe anche star zitto, no? Che dite? Io vorrei farvi ascoltare cosa ha detto proprio Corrado Formigli, che il giorno dopo è stato ospite di Effetto Giorno di Simone Spezia, ha parlato proprio di questo aspetto dell'opportunità. Eccolo qua, Corrado Formigli. Io penso, ritengo che non sia opportuno che uomini di governo, in particolare il Presidente del Consiglio, intervenga su come debba essere fatta l'informazione. L'informazione la fanno i giornalisti, i professionisti dell'informazione, la politica la fanno i professionisti della politica, come lui lo considera inopportuno. Ha usato proprio questo termine qua, ha proprio usato il termine di Massimo Bernardini. Daniele, tu cosa ne pensi? No, è che la quantità è molto spesso una nemica della qualità, per cui se tu devi fare un talk show ogni sera su tutti i canali contemporaneamente, devi buttare tutta la brodaglia possibile, immaginabile in diretta, e quindi tante di queste cose che vengono raccontate sono effettivamente balle spaziali oppure chiacchiere sul nulla. Cioè, siamo da 15 giorni di racconto televisivo molto retroscenico. Scenoso e molto spesso molto inventato. La quantità, Massimo, tantissimi talk show, anche quest'anno con la nuova infornata del palinsesto. Cioè, capisco, cioè, risparmiare, ma proprio per risparmiare solo talk show bisogna fare? No, ma questo è il punto, cioè rilevo una piccola contraddizione tra i Formigli, cioè ha ragione nel dire non si devono esprimere, però contemporaneamente, diciamoci la verità, metà del talk show è costruita dalla presenza dei politici, cioè tu li vuoi i conduttori dei tuoi suoi politici, nel momento in cui li vuoi ne fai carne, come dire, ingrediente della tua cucina, poi è dura che dici loro però non dite la vostra su come noi facciamo informazione, cioè il cortocircuito si è creato, c'è niente da fare, c'è una dipendenza di Consiglio Italiano dal politico che è totale. Per tante ragioni, lo sappiamo, innanzitutto di costo, il politico ci viene gratis e quindi non hai un casting da pagare, per esempio. Cioè, è inutile, è un cortocircuito continuo la televisione italiana, nel senso che i talk show nostri sono inconcludenti perché poveri, guarda, la dico un po' anche in maniera provocatoria. La televisione italiana è diventata povera, e diventando povera si deve popolare continuamente di politici che costano poco. Non c'è niente da fare, quindi non se ne esce. Cioè, l'inconcludenza dei talk show italiani è che invece di avere l'esperto davvero, diamo la politica estera, a me colpisce molto, tu fai una serata sull'ISIS e avresti bisogno, per esempio, di capire, che ne so, per il mondo islamico cosa vuol dire la pretesa del ritorno del califfato. Se tu non hai in mente che il califfato era una cosa che in Turchia si è chiusa nel 1920, cioè avresti bisogno di qualcuno che ti spieghi della storia. Giustissimo, invece ti trovi Salvini contro Serracchiani. X che ti dice, secondo me l'ISIS, e chi se ne frega da un certo punto di vista, cioè che cosa sei titolato, perché tu hai aperto Repubblica, il Corriere o il Giornale o la Stampa 10 minuti prima e hai letto quel che dice un giornalista dell'ISIS. Cioè c'è una povertà intrinseca, no? In questo ha ragione. Però contemporaneamente non abbiamo ragione noi che facciamo i talk show, perché se li popoliamo, io no però. TV Talk è un'altra cosa, TV Talk è un'altra cosa. Se tu li popoli di politici inconcludenti, poi non puoi dire politici non parlate male, insomma, non se ne esce, è zoppo, da qualche parte è zoppo questo racconto. Io vorrei ascoltare insieme a te, Massimo, anche un qualcos'altro che è andato in onda questa settimana, un talk show non politico, che è quello, o non sempre, che è quello di Daria Bignardi alle Invasioni Barbariche. Era ospite la Stefania Pezzopane, senatrice, per parlare però della sua storia d'amore con Simone Coccia. Ecco cosa ha detto Stefania Pezzopane. In una società in cui giustamente si promuove l'amore per chi è in carcere, l'amore tra persone diversamente abili, l'amore tra bianchi e neri, tra grassi e magri, l'amore non dovrebbe avere titoli, non dovrebbe avere definizioni, e invece, forse perché non si sa più provare questo amore, quando lo si vede negli altri disturba, dà fastidio, fa paura. Qualcuno mi scrive anche stamattina, ma guarda che lui sta con te solo per i soldi. Ma quali soldi? Ma perché non bisogna credere che lui possa stare con me perché c'è amore? È questo che mi irrita. Vabbè, niente, mi sono commossa anch'io su questa cosa perché lei si è commossa. Massimo, cosa l'hai pensato? Perché sicuramente l'hai visto. Innanzitutto che io non mi sono commossa. No, io sono romanticissima, mi sono commossa. A parte che mi parte un chi se ne frega veramente cosa. Cosa vuoi dire? Cioè, auguri a figli maschi, non so come dire. Vabbè, faccio un po' l'avvocato. Una cosa, mi è cascato l'occhio, sono appena un libro che ho preso di recente con le lettere intagliate. A un certo punto dentro questo libro si racconta una cosa, non compro mai la televisione, gliela regalò per il suo 70esimo, nota bene, 70esimo compleanno, quindi siamo già dopo che la televisione era nata da 10 anni, il suo medico. Il medico di Togliatti gli regala 70 anni la televisione, vuol dire che lui, pur andando a tribuna politica da almeno 5 anni, lui non aveva la televisione. E lo giustifica col fatto che era una fonte di distrazione, anzi... che va. Cioè ci stai consigliando di fare come Togliatti? No, ti sto dicendo che cioè, Pezzo Pane e Togliatti fanno parte della stessa radice politica, ecco. Faccio notare questo. Sì, c'è un po' di differenza. Vabbè, però magari voglio fare una. No, non si può, non ci c'è pausa. A un politico che si commuove dicendo: sto fusto mi ha preso perché mi ama, ma chi se ne frega, ma dai, cioè, Palmiro, non si può parlare di questo in televisione, ma non esiste, ma innamorati, tutto il rispetto per la sua storia d'amore fino in fondo, ma perché devi parlarne in televisione? Vabbè, io mi sono poco... Però non possiamo parlare di politica. Sola, mi sono vabbè, c'è pausa. Sì. Abbiamo una brevissima pausa. Proprio, sì, vi richiamo all'ordine perché abbiamo una pausa brevissimissima. Però io voglio tenere Massimo Bernardini ancora per qualche minuto, adesso che l'abbiamo intercettato dopo TV Talk su Rai 3, che io adoro. Poi c'è anche un aneddoto che riguarda davvero la mia tesi di laurea. Questo è divertente. Ci ritroviamo tra pochissimo. Pochissimo. YouTube. Rieccoci insieme, abbiamo parlato un po' della crisi dei talk show, anche perché la disfida via Twitter tra Formiglia e Renzi mi è piaciuta, ma con Daniele Bellasio che è accanto a me, come sempre, ma anche con Massimo Bernardini, il re di TV Talk. Buonasera Massimo, che è ancora con noi. Sì, il re di TV Talk. Ma posso difendere un attimo la cosa della Pezzopane? Vuoi difendere? Perché abbiamo ascoltato prima della pausa Stefania Pezzopane, che era ospite alle Invasioni Barbariche, che ha parlato della sua storia d'amore con Simone Coccia. Dai, io difendi l'amore, difendi l'amore. No. L'amore contro l'odio. Non difendo l'amore. Però volevo dire che magari, cioè, la ragione per cui esiste la trasmissione di Daria Bignardi è quella, appunto, di tentare di fare delle interviste diverse, un po' sorprendenti, a volte ci riesce, a volte ci riesce meno, ed è anche un po' un tentativo di fare, appunto, un talk show diverso dagli altri. Poi magari non sempre l'obiettivo è raggiunto, però i tentativi in questo caso potrebbero, come dire, premiati. Ma infatti io mica me la prendo con Daria, che secondo me è bravissima, ma guarda, non me la prendo neanche con Formigli, di cui abbiamo parlato prima, che secondo me, soprattutto quando fa dei servizi andando fuori dallo studio in giro per il mondo, è il migliore di tutti. Sì. Io me la prendo con chi ti viene a raccontare la sua storia, ma perché? Dimmi perché. La discrezione, la parola discrezione è così volgare. Giusto, questo è una cosa così improponibile. Game, set and match, hai vinto. Vuoi che ti racconti la mia storia d'amore? Non te le racconto, chi se ne frega? Raccontatemi le vostre, ma ti rispondo chi se ne frega. Cioè, vabbè, amore no, ma almeno Eros? No, allora sai almeno perché, Eros? Massimo? Cioè, Daniele Bellasio non si è ancora ripreso. No, aspetta, fermi tutti. Di la verità, non si è ancora ripreso. Sì, ma spieghiamo, per Valeria, visto che è la moglie di mio amico. Cioè, stiamo lontani dall'argomento. Però c'è stata sempre una trasmissione di Daria Bignardi, un esperimento televisivo pazzesco. Sì. No, pazzesco perché... Pazzesco e un po' erotico, allora, diciamolo. Esatto, posto che non possiamo dire niente di Daria Bignardi, perché è appunto moglie sua, quindi... però Luca, della Golino puoi dire che ti piace. Assolutamente, però della Golino anche, anche perché Riccardo Scavarci lo conosco di meno, esatto, non l'ho mai visto. Ecco cos'è successo tra Valeria Golino e Daria Bignardi, e Daniele Bellasio non si è ancora ripreso. No, non si è ancora ripreso. Dimmi qualcosa che già ti piace di me. A me di te tutto. Thank you. sei molto bella. E io sono molto, molto, come dire, succube quasi della bellezza. Mi piace la bellezza, mi attira la bellezza. E tu sei bella. Non stiamo fingendo, ragazzi. Sappiatelo. Io mi sono messa qua in una cosa che non so come ne uscirò, ma andiamo avanti. Adesso guardiamoci negli occhi per 20 secondi. E poi sono passati 20 secondi nei quali io immagino Daniele Bellaso in apnea, Daniele Bellaso in apnea davanti a Valeria Golino. Massimo, non possiamo cosa raccontare mi tocca, le loro cosa espressioni. Mi tocca sopportare, Massimo, questo alto momento per di Valeria televisione. No, ma è un altro momento di televisione, un esperimento, 20 secondi di vuoto con due facce che si guardano. Massimo. Io vorrei anche ricordare che il vuoto addirittura a Sanremo lo fecero gli aeroplani italiani, lo fece Alessio Bertallò tanti anni fa. Vabbè, non ho detto il vuoto. Massimo, vuoto. Cosa dici di questo esperimento? Il vuoto erotico. Non ho parole. No! Grazie, vuoto, Mario. Silenzio, stiamo in silenzio. Parole. Bellissimi, posso dire questo. Uno dei due soggetti ha degli occhi bellissimi. Ecco, tu che usi tanto i social, Massimo, che raccogli anche, diciamo, Max Bernardini su Twitter, soprattutto su Twitter per la social TV, tu raccogli un po' gli umori. Io Facebook non l'ho mai frequentato. Sì, insomma, però io un pochino, devo dire, lo vedo attraverso i tweet che ci riguardano il sabato a TV Talk, vedo tanta pancia però, tanto... parlare di pancia e poco di testa, insomma. Mi stanca un po', ho voglia di ragione, ho voglia di testa, ho voglia di complessità, infatti frequento anche altre cose, anche televisivamente, che in questo momento onestamente mi danno più soddisfazione. Quello che sta dicendo... Dialogare con uno storico su un tema lontanissimo da noi, che ne so, preferisco dialogare con uno storico di Gengis Khan che non degli occhi di un attore. Quello che posso dire una cosa, quello che sta dicendo Massimo Bernardini è talmente vero che anche grandi protagonisti della rete come Andrew Sullivan, questa settimana, blogger di The Dish, ha scritto un lungo pezzo per dire che farà esattamente questo, che si prende un po' di tempo lontano dalla velocità, dalla bulimia della rete per leggere il libro di uno storico, magari scriverne uno suo, ricominciare ad andare in giro, a camminare, a vedere almeno per una fase il mondo anche senza gli occhi della rete. Tra parentesi voglio ricordare Massimo Bernardini, Il Tempo e la Storia, Rai 3 tutti i giorni all'ora di pranzo e poi su Rai Storia 14:30 e 20:50. Sì, sembra che ma lo dico io. Lo dico io. In realtà... Davvero, in questo sono sincero, cioè, ci sono punti ormai di... Cioè, sono più stimolato da conversazioni sul nostro passato che non da dissertazioni inconcludenti sul nostro presente. Insomma, questo, devo dirlo, a pelle è quello che mi sta succedendo. Insomma, poi magari... E anche i social network, io sono dentro Twitter da 2 anni e mezzo, più o meno. Vi confesso che mi sto cominciando a chiedere se restarci a lungo. Ai, questa è una notizia. Sto cominciando a stufare, perché quello che leggo comincia a stufarmi un po'. Però per ora ci sto, insomma, vedremo. Poi mi piace quando twitti di musica, lo farai anche da Sanremo? Perché qui abbiamo già parlato di Sanremo nel primo blocco, siamo già un po' entrati. Che lì non ne ho ancora parlato con i capi, perché io sono... incastrato nella giuria di qualità. È per quello, no? Te lo chiedo, perché e quindi mi sa che me lo vieteranno. Come nel conclave, praticamente. L'impressione che non potrò mica tanto dire la mia, perché sennò poi sono influenzabile. Non lo so, però non ne ho ancora parlato con Conti e compagnia bella. Vedremo che mandi un sms a Marta e Marta twitta. Io twitto per te, di nascosto. Un'altra cosa da chiederti: è iniziato è ritornato su Sky Alessandro Cattelan. No, ma io con un naso così in televisione non ci posso assolutamente andare. No, vabbè, dai, ti saluto, dai, ciao. Madonna, faccio proprio schifo oggi, cos'ho? Bravo, per una volta che ci invita da qualche parte. È la cosa che mi diverte più fare, dove forse anche più faticosa, però dove la fatica non la senti, perché è la mia cosa, ecco, sono felice di ricominciare. dà l'impressione di essere uno che si nutre a pane e grandi conduttori americani. Sì, ci provo, perché ho sempre guardato tanta TV, anche italiana, e però anche mi sono sempre piaciuti i late night americani, fin dai tempi in cui vederli era molto complicato perché non c'era internet, erano i primi satelliti, li mandavano in onda a orari impossibili, me li registravo, insomma sono sempre stato un grande fan, e da quando ho iniziato a fare questo lavoro ho sempre avuto come obiettivo quello di fare un programma del genere. Fosse stato per me l'avrei fatto 13 anni fa, per fortuna non me ne hanno dato la possibilità, per cui credo di esserci arrivato in un momento in cui sono pronto, ecco, per fare questa cosa. Cosa ne pensi, Massimo, di questo late night all'americana? È quello che mi piace in una generazione come la sua, è l'energia che c'ha dentro, quello mi piace proprio, nel senso che quello che deve fare di più la sua generazione è in realtà di aprire libri, di aprire mondi, cioè di guardarsi un po' di più anche alle spalle. Questo manca un pochino a loro. Cioè, faccio un esempio di uno che l'ha fatto sto lavoro, Giovanotti. Se uno prende, mi è successo un po' che notti fa di vedere una vecchia cosa di Giovanotti con Pippo Baudo, ai tempi delle prime cose che faceva. Sembrava veramente un paninaro da quattro soldi che non avesse nulla da dire. Lui ha veramente aperto i libri, ha aperto il canale della conoscenza nel suo cervello, ed è un altro, oggi è un altro. Anche le cose, la sua TV su YouTube, secondo me, ti racconta non solo il suo fare artistico, i suoi pezzi, ma il suo sguardo adulto sul mondo. Ecco, forse quello che manca a quella generazione lì, partendo però da una energia bella, sveglia, anche meno paludata di, per esempio, del modo che ho io di muovermi, insomma, in questo glielo invidio anche, perché sono vecchio evidentemente. Ma quale vecchio? Massimo, non posso non chiedertelo, Daniele, dobbiamo chiedere a Massimo cosa pensa dell'Isola dei Famosi, che con la prima puntata che è durata 25 minuti. La prima non puntata, sono curiosa, cosa ne pensi? Beh, insomma, è strano che si sia così bloccata, nel senso che, voglio dire, le altre volte, tra l'altro siamo andati a guardare in archivio, c'è un precedente proprio di una cosa simile, della Tempesta, sì, sì. E l'avventura se l'ha gestita tutta, nel senso che si è inventata insieme agli autori 300.000 cose per fare la serata comunque. Invece lì hanno chiuso prima, in maniera che francamente, cioè, ho capito che la Marcuzzi era a disagio e quindi non si poteva fare diversamente, però... non lo so, mi ha dato l'idea di un difetto della nostra televisione di oggi, che non è più capace di gestire l'emergenza. Ecco, questo mi ha lasciato un po' interdetto. E lì gli autori devono subentrare. Sì, sai, Massimo... La conduttrice in diretta è difficile. Che meraviglia. Sì, devi essere aiutato, devi inventare delle cose, capisco. Cioè, sul filo della diretta sono cose complicate, non è che si improvvisano senza costi, da un punto di vista di fatica, di... Però dai, insomma, sì. Dobbiamo andare avanti, insomma. Sono d'accordo. Facile dirlo da fuori. Sì. Forse dovevano solo preparare un piano B, diciamo così, visto che le cose che si stavano... Sì. Che meraviglia che abbiamo avuto Massimo Bernardini, reduce da TV Talk a Radio Tube. No, sono molto contenta. Grazie a voi di avermi ospitato, veramente gentile. Daniele, grazie. Lo chiamiamo ancora Massimo Bernardini, certo, poi lo disturbiamo ancora. Vi vedete a Sanremo? Sì, ci vediamo a Sanremo, Massimo. Beh, lui sarà chiuso in conclave. Grazie Massimo Bernardini di essere stato quando con volete. Noi. Ciao. A presto Massimo, grazie. E adesso? Adesso noi abbiamo una breve pausa. Ah. Io però, visto che abbiamo parlato di Isola, vi lascerei solo così riascoltare quello che è successo con Alessia Marcuzzi e Rocco Siffredi. Vabbè, tu tappati le orecchie, ecco cosa è successo tra Alessia Marcuzzi e Rocco Siffredi. Ciao, niente di inaspettato. Vado. Ecco qua. A questo punto io devo comunicarvi ufficialmente... Mara, dimmi, scusami, no, vorrei perché sapere fare perché una Rocco sta dietro, mettiamolo davanti. Perché è il più alto! Perché è il più alto, Mara! È il posto mio, sto sempre dietro, Ecco! E guarda che se vedi bene sto dietro alle Nasty Twins. YouTube. E come passa? passa il tempo quando ci si diverte, tre ore del sabato sembra, del villaggio, sì, un'ora di RadioTube. Sì, ma proprio no, tu, io sì che sono qua da tre ore, io lavoro tanto, tu arrivi qua all'ultimo e ti godi su tutti i successi, l'ultima ora, quella di RadioTube. Hashtag RadioTube, un ascoltatore ha scritto arrabbiato perché dice che dico troppo i nostri account Twitter. No, sì, no, non è mai troppo. Ma è vero che hai imparato a mettere il podcast e quindi... Subito, vediamo se sono capace. Qui non si può più dire lunedì podcast. Non si può più dire lunedì podcast, vediamo se sono capace di metterlo da sola. Se sono capace arriva molto presto. Arriva molto presto, ho imparato. Va bene, ma adesso parliamo di... Allora, parliamo di un argomento che sarà di attualità nei prossimi giorni, perché noi anticipiamo, perché tra la notte, tra domenica e lunedì, in America ci sarà il Super Bowl. Ci sono tanti appassionati anche in Italia. Tantissimi. Di cosa si parla sempre prima della finale del Super Bowl? Quale sarà lo spot sorpresa, giusto? E gli spot più visti, bravissimo, gli spot più visti, le polemiche. Ci sono già tutte le anticipazioni, le polemiche, l'abbiamo fatto l'anno scorso, lo rifacciamo, ci colleghiamo con un espertissimo, chiocciola MB su Twitter, Michele Boroni, buonasera Michele. Buonasera, ciao Marta, ciao. Beh, quest'anno è più difficile, perché l'anno scorso era dopo, quest'anno deve addirittura prevedere, giusto? Quest'anno gli abbiamo chiesto di guardare nella sfera di cristallo, esatto, e dirci quali saranno i grandi i temi del Super Bowl. Michele, intanto, beh, insomma, gli ascoltatori ormai ti conoscono, chi frequenta la rete ti conosce benissimo come MB. Qual è l'importanza di questi spot del Super Bowl? Perché ne parliamo sempre in Italia, sì, ne scriviamo tanti, ma sono davvero importanti. Sono importanti, sono un evento, sono fondamentalmente un evento, perché diciamo, mi piace paragonare un po' gli spot del Super Bowl con le dovute differenze. Diciamo, gli spot del Super Bowl stanno alla pubblicità come Sanremo sta alla musica, nel senso che non rappresentano più l'eccellenza della pubblicità, perché insomma oggi le grosse aziende sono molto più concentrate a diciamo, creare delle strategie digitali e quindi lavorare su internet, sul web, cercare di come dire, essere un po' più efficaci. Però evidentemente sono, diciamo, l'evento Super Bowl, quindi lo spot da 30 secondi, è comunque un evento che catalizza milioni e milioni di americani. Insomma, si parla di 100 milioni di americani che vedranno i break del Super Bowl il prossimo primo febbraio. Tenete anche conto che appunto uno spazio di 30 secondi, proprio solo come spazio, costa 4,5 milioni di dollari, quindi 4 milioni di euro. È un po' un eventone, gli spot che si guardano in famiglia, un po' un rituale, però come carosello. Ma a volte sono spot fatti proprio per il Super Bowl, giusto? Assolutamente, assolutamente. A volte vengono proprio prodotti e realizzati unicamente per il Super Bowl, altre volte invece poi rappresentano l'inizio di una campagna che poi andrà in televisione e andrà ovviamente sul web, perché insomma anche le cose che si sono già viste, appunto non è che ho la sfera di cristallo e anticipo le cose, ma appunto i vari variety, i vari giornali, edizioni web, dei giornali di pubblicità come Adweek o come appunto di spettacolo come Variety hanno anticipato alcuni spot, altri invece sono ancora un'incognita, quindi li vedremo insieme la notte del primo febbraio, o meglio li vedranno gli americani, perché poi noi vedremo la partita, vedremo il Super Bowl, la gara, diciamo l'incontro di football americano, ma non vedremo in Italia gli spot, li vedremo poi successivamente anche qua, sempre grazie al web. E poi magari appunto diventeranno, lo dico la parola, già virali. Mamma mia, che brutta parola, che brutta parola. Vorrei parlare, ascoltare insieme a voi un pezzettino già di uno di questi spot. Come a me a me è piaciuto tantissimo questo, perché vabbè, lei è un personaggio di cui si parla tantissimo. In radio devo dire che rende un pochino meno. Eccola qua, Kim Kardashian. Hi, I'm Kim. Each month, millions of gigs of unused data are taken back by wireless companies. Tragic. data you paid for that could be used to see my makeup, my backhand, my outfits, my vacations. Beh, la voce di Kim Kardashian, beh, non si vede il suo personalino, però già la voce si intuisce. Sì, non è male. È molto spiritoso questo spot, Michele, perché con questo tono da pubblicità progresso, ogni anno questi dati vengono persi, sembra che si parli di una questione gravissima di sicurezza informatica, e dice: ma come, i dati, le immagini che riguardano i miei outfit, i miei vestiti, il mio fisico, e lei si è messa molto in... lei è straordinaria, insomma. Diciamo che il suo B-side, il suo lato B, è stata una delle cose più diffuse in rete alla fine del 2014. Carino questo spot, Michele. Assolutamente, sì, è appunto lo spot della T-Mobile, che è appunto la compagnia telefonica, che ha creato una tariffa flat, quindi una tariffa per navigare, ma che in qualche modo rimborsa e quindi fa riutilizzare i gigabyte di traffico che non sono stati utilizzati il mese precedente. E quindi lei dice: tutti questi byte che voi non avete utilizzato e che potreste utilizzare guardando appunto il mio lato B, il mio outfit la mia immagine, adesso T-Mobile vi dà la possibilità di poterli riutilizzare anche se non li avete utilizzati. Quindi è sicuramente una da quelle che si sono viste, una delle più ironiche e più creative, ecco. C'è forse lo spot più atteso? Io chiederei a Valeria Bernardi in regia se comincia a farci sentire un po' la musica, perché già si sente, no? L'atmosfera. Budweiser, la birra, hanno sempre il cucciolino, le cosine tenere. Anche quest'anno, Michele, hanno fatto... Sento la musica, secondo me hanno fatto ancora una cosa tenerona. Assolutamente, hanno fatto una cosa tenerona, ma diciamo da un punto di vista, diciamo, ambiguo, perché uno dei grandi investitori di questi del Super Bowl, che è GoDaddy, che sarebbe, diciamo, la società leader nella gestione dei domini internet, ha utilizzato un cucciolino come, diciamo, testimonial. Questo cucciolino viene abbandonato per strada, poi riesce a ritrovare la via di casa e, camminando lungo la strada, superando mille difficoltà, riesce a trovare la casa. La padrona vede il cucciolino. Aspetta Michele, ascoltiamolo, perché io ce l'ho l'audio. Chi capisce l'inglese capisce come va a finire. Non svegliamolo subito il finale. Eccolo qua. Go Daddy. Look, it's Buddy. I'm so glad you made it home. Because I just sold you on this website I built with GoDaddy. Ship 'em out. Cioè, praticamente: oh, che bello, il cagnolino è tornato, cucciolo cucciolo. E lei dice: sì, che bello che sei tornato, perché ti ho appena venduto sul sito. Cioè, è tremenda. Infatti, al punto che hanno censurato lo spot, quindi è visibile su YouTube, ma non sarà visibile la notte dei Super Bowl, politically incorrect nei confronti dei cani. Sì, era cattivo. A parte che il cagnolino stava meglio sicuramente da chi l'aveva comprato, se quegli altri lo volevano vendere. Certo, si era contenta, certo, che aveva tornato, cioè, perché l'avevano venduto. Abbiamo solo qualche secondo, Michele, però mi hai segnalato uno spot molto interessante. Diciamo, la donna che di solito è sempre vista come appunto la donna bella, quest'anno tra l'altro ritornerà tra gli investitori del Super Bowl anche Victoria's Secret, e quindi insomma la donna modella eccetera eccetera, questa volta però è anche la protagonista di uno spot, diciamo, sociale, fatto un'agenzia no profit che si chiama No More, mai più appunto, e che si occupa appunto di combattere la violenza domestica e sessuale. Lo spot non è altro che la registrazione di una telefonata di una donna che è appena stata vittima di violenza e che chiama il 911, il servizio di emergenza statunitense, fingendo di ordinare una pizza, e diciamo l'operatore dall'altra parte capisce bene che in realtà sta accusando il suo compagno di una violenza domestica che ha appena ricevuto, e quindi diciamo intuisce. Nel frattempo si vedono delle immagini, dei dettagli di un ambiente domestico diciamo violentato in qualche modo, e quindi si vede, non lo so, dei piatti rotti, un letto sfatto, mura scrostate, eccetera eccetera, e quindi fanno capire in un modo abbastanza delicato e non violento insomma invece delle, una situazione non proprio idilliaca. Michele, se ne parlerà, eh? Grazie, sì. Michele. Grazie, Michele. Grazie. Borone, per essere stato con noi. Chiocciola MB, grazie, Michele. Grazie a voi. Ciao, ciao. Buon pomeriggio. Ciao. Daniele, è finita, sì, è finita anche questa puntata però, di Radio Tube. Però, c'è la prossima. C'è la prossima, alle il podcast 15, prestissimo. Il sabato del villaggio. Ebbene sì, alle 17 Radio Tube, e quindi ci ritroviamo podcast. Sabato prossimo. Ciao.